Siamo con Luciana Fina, regista del film Terceiro Andar, che sarà oggi 27 giugno all'Apollo 11 a Roma. Luciana, benvenuta. Grazie. Ce lo presenti brevemente? Allora, grazie, sono molto contenta di portarlo qui a Roma, di portarlo qui all'Apollo 11. Converserò anche del film con Antonio Pezzuto e con Fabio Perfetti. E vi presento il film brevemente, un film che ho girato interamente nel palazzo in cui vivo a Lisbona, in pieno centro di Lisbona. È un quartiere degli anni 30, quindi un quartiere diciamo, di ricchezza architettonica, che però ospita straordinariamente per una capitale europea ancora popolazioni diverse. Nel mio palazzo vivono portoghesi, vive questa famiglia della Guinea Bissau musulmana, vivono indiani, quindi ancora un centro storico ricco di un rapporto anche con altri continenti. Ho pensato di fare quindi un film che è all'ascolto di questo palazzo, è un film che guarda il palazzo, guarda lo spazio comune del palazzo attraverso il suono, ed è un dialogo con due donne del terzo piano, madre e figlia, musulmane della Guinea Bissau, che dialogano sull'amore e sull'educazione sentimentale. Quindi un po' un invito all'ascolto degli spazi comuni ancora presenti in città, e un invito anche all'ascolto di quella che è la nostra educazione sentimentale, che è fatta dei nostri piccoli gesti del quotidiano, ma anche dell'amore, di quel che ci trasmettiamo gli uni con gli altri. Luciana, come era venuta l'idea? Come è nato il progetto? Allora, il progetto è nato quando la giovane Aisato, la figlia musulmana della Guinea Bissau, mi ha chiesto di aiutarla in realtà a scrivere la sua prima lettera d'amore, la prima lettera d'amore che voleva realizzare in figlio. Quindi ho dato spazio nel film a questo momento, al momento in cui lei mi chiede di aiutarla, al momento in cui riordina le idee attorno al montaggio di questa lettera d'amore, che è un po' stato il momento chiave forse dell'inizio del film, perché mi sono resa conto che c'erano molte cose da condividere e che era bellissimo che attraverso il film ci fosse un'occasione di incontro così profondo come la scrittura di una prima lettera d'amore. Che riquadro esce fuori da questi racconti, da queste conversazioni? Allora, io direi che c'è fuori una realtà in cui forse le grandi distanze scritte dalla nostra storia contemporanea sono un po' rilette alla luce di una grande prossimità. Quel che dico probabilmente quando guardiamo al mondo di persone così diverse da noi, se mi chiedessi qual è la donna più diversa da me, io direi forse la madre di questa famiglia ha una vita assolutamente diversa dalla mia, però forse nello scambio di parola, nello scambio di ricordi, di desideri, di proiezioni delle nostre esistenze, c'è qualcosa in comune che è molto importante e che forse è proprio un atto di incontro, un atto di parola, è anche forse un universo femminile che è condivisibile, non è così distante come diciamo la realtà contemporanea ci racconta, nel peggiore dei termini. Quindi possibilità di incontro è una possibilità, poi anche le lingue, in questo film c'è una lingua orale che parla la madre, che forse comparirà da qualche anno, e quindi è una lingua che è trasmessa dalla figlia, che poi ci traduce in portoghese quella che la madre ci dice, poi c'è questa traduzione forse di tutto il mondo verso anche il mio, che sono qui in copiano. Quindi una trasversalità di questo palazzo attraverso mondi diversi, e forse raccontare attraverso il film che è forse possibile pensare ad uno spazio comune oggi. Mm-hmm. Che percorso stai facendo fare al tuo film? Allora, il film, la prima è stata a Lisbona, dopo Lisbona, il Festival Internazionale del Documentario. Esiste una versione, un mitico, del spazio espositivo, che espone in mostra alla Fondazione Gulbenkian a Lisbona per tra il 2000, la fine del 2016 e l'inizio dell'anno scorso. L'anno scorso poi è stato al Festival di Torino, al Festival di Salina, continua in altri festival internazionalmente. A questo punto ti chiedo se ci sono dei riferimenti web per saperne di più. Al posto sul mio site. Ok. Luciana, sì, quello della produzione, però quello della produzione bisogna cercare il film. Aspetta, fai pensare, forse è più facile sul site, che sì. C'è una landing page sul film. Allora, www.lucianasina.net. Allora, ricordiamo l'appuntamento con il documentario Terceiro Andar di Luciana Fina, 27 giugno all'Apollo 11 a Roma, ne discuterà al termine della proiezione con Fabio Ferzetti e Antonio Pezzuto. Luciana, un abbraccio, un in bocca al lupo, a risentirci presto. Ti ringrazio moltissimo, buon festival per te, a presto. Ciao. Ciao.